sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sapevo che il rumeno è una lingua neolatina, questo sì. Ma neppure so dire se sapevo che Bucarest era la capitale. Mentre alle 11 di un sabato notte mi ritrovavo in uno dei suoi cimiteri a fare una specie di picnic in onore di Dumitru. Sono Rocco, ho 43 anni, da qualche anno dopo aver girato per mezza Italia vivo a Firenze, ma sono orgogliosamente lucano. Sono avvocato e sono responsabile dell'ufficio affari societari e legali di un'azienda fiorentina. Sposato con Micaela, una figlia di 2 anni, Ludovica. Adoro cucinare e con mio padre formiamo una coppia di formidabili pizzaioli. E visto che oggi è l'8 di dicembre ed è il giorno dell'Immacolata, e visto che mancano 3 giorni all'11 di dicembre, giorno in cui saremo dal vivo, in diretta, ma soprattutto dal vivo, dal Pirelli Store di Corso Venezia numero 1, andate sul nostro sito, andate sulla nostra pagina, voi siete qui, al sito di Radio 24, cliccate su Pirelli, voi siete qui live, e iscrivetevi se avete voglia, magari mentre siete in giro a fare delle gare di Natale. Tu pensa che fantasia incredibile che ho, eh? Che l'11 di dicembre uno dov'è? Cos'è a fare in giro a fare? A fare regali di Natale per il centro di Milano. Vabbè, se aderite a questa mia fantasia o se per caso non aderite ma avete voglia di venire, noi siamo lì proprio nel centro di Milano, Piazza San Babila, Corso Venezia, c'è sito Pirelli, entrate, c'è della roba verde, quelle sono le bandiere di Radio 24, in fondo ci siamo noi, con tutti presenti tranne Miriam come al solito. Miriam non viene mai. Non la fanno mai uscire, Miriam, la tengono qua chiusa. A raccontare storie che parlano di regali di Natale. Se non avete voglia di venire o non potete venire, ma avete storie di regali di Natale, inviatecela. Voi siete qui, @radio24.it, e noi ci facciamo una puntata. Buongiorno a tutti, Radio 24, voi siete qui. Matteo Caccia, oggi raccontiamo una storia abbastanza particolare. La storia di Rocco, che parla di suo suocero, ma parla di un pezzo, diciamo, importante della vita di suo suocero, che è l'ultimo atto della sua vita. È il funerale che... nel luogo in cui si trova, cioè in Romania, ha delle usanze molto particolari. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma e voi siete qui Radio 24. Cerchiamo di sfatare questo mito dei suoceri per cui il suocero non si va mai d'accordo col suocero, la suocera è una stronza. Se avete un ottimo rapporto col vostro suocero o la vostra suocera e ci andate d'accordissimo, 349-238-6666. Come ha fatto Pierpaolo, ad esempio, che scrive: con mia suocera vado così d'accordo che quando mia moglie non ha voglia di uscire, vado al cinema con lei. Ecco, Pierpaolo, questo è quasi sospetto, nel senso che non mi fido ciecamente di quelli che vanno troppo d'accordo con comunque la suocera o il suocero, no? Cioè, c'è di mezzo che è la mamma o il papà di tua moglie. Forse andarci proprio al cinema. Gioia, mio suocero era un marinaio e non era mai a casa quando mio marito era piccolo. Dopo la pensione è diventato una sorta di saggio cui tutti in paese vanno a chiedere pareri e io sono tra i primi a farlo. Ecco, roba così. Sul profilo Twitter hanno già scritto: Serena, adoro mio suocero che mi adora. Lui è sempre stato un uomo molto contestato, anche in famiglia, ma per me aveva una predilezione. 349-238-6666. Vi ricordo che potete scaricare tutti i podcast del programma dal nostro sito, dal sito di Radio 24, alla nostra pagina, oppure iscrivendovi gratuitamente al sito di iTunes, oppure tramite le app che avete sul vostro smartphone. Ora cercate di dimenticare dove siete, se siete in giro a fare regali di Natale, essendo l'8 dicembre, secondo la mia scarsa fantasia. Provate per 20 minuti, una mezz'oretta, a cercare di dimenticarlo. Immaginatevi la Romania, se non ci siete mai stati, cercate di immaginarla, oppure fatevi guidare dal racconto di Rocco. Siamo in Romania e siamo in un cimitero. Ero lì, nella mano destra una frittella zuccherata, nella sinistra un bicchiere di vino bianco, ovviamente allungato con acqua frizzantissima. Spritz lo chiamano da quelle parti. Ero lì a pensare al fatto che fino a qualche anno prima della Romania non conoscevo che Gheorghe Hagi, il Maradona dei Carpazi, Nadia Comaneci, la ginnasta più grande al mondo, e il dittatore Ceausescu, che neppure so come si scrive. Sapevo che il rumeno è una lingua neolatina, questo sì, ma neppure so dire se sapevo che Bucarest fosse la capitale. Mentre alle 11, le 23, di un sabato notte di piena estate, mi ritrovavo in uno dei suoi cimiteri a fare una specie di picnic in onore di Dumitru, che per tutti era mitica, ma per me no. Io solo potevo, e anzi dovevo, chiamarlo Dumitru, perché così lui voleva. e Dumitru era nella piccola cappella che si trovava all'ingresso del cimitero, disteso in una bara alla quale era appoggiata una grossa croce in legno che portava inciso Dumitru Nedelcu, 1940-2009. All'entrata della cappella, subito a destra, una specie di enorme armadio in ferro senza ante e con un unico ripiano, sul quale lentamente si consumavano lunghe e sottili candele di color giallo opaco. Ogni visitatore doveva accenderne una, ed erano tanti quelli che erano venuti a far visita a Dumitru, a giudicare dal numero delle candele e delle frittelle rimaste. Praticamente nessuna. Eppure, le amiche di Gena, la moglie di Dumitru, ne avevano preparate oltre 100. Ho sposato mia moglie, che è rumena, per cui è lei che mi ha colpito per primo. Poi li adoro, insomma. Io ho vissuto tanti anni a Napoli e per certi versi li trovo molto napoletani. Quando vado a Bucarest, perché mia moglie è di Bucarest, una città che trovo sempre viva, puoi uscire a qualunque ora, sempre tutto aperto, insomma, comunque sono cordiali e mi piacciono per quello. Gena aveva passato tutta la mattinata a preparare il cibo che l'indomani avrebbe dovuto, unitamente al servizio di porcellana nel quale andava servito, offrire a 12 uomini presenti al funerale. Lo stesso poi avrebbe dovuto fare ancora a 40 giorni dalla morte del suo caro. Il prete, anche in quella circostanza, sarebbe venuto a casa a benedire il cibo e a prendersi tutti gli abiti di Dumitru. Quella stessa mattina, intorno a mezzogiorno, avevo assistito ad una specie di messa propedeutica, per così dire, al funerale vero e proprio. Occorreva celebrarla in quanto Dumitru, ortodosso, non aveva fatto in tempo a confessarsi prima di morire. Era una specie di confessione post mortem e, naturalmente, come ogni intervento sacerdotale da quelle parti, aveva un costo. Il pope ed il suo fido sagrestano, un giovanotto senza età, biondiccio e rubicondo che vestiva alla Gianni Agnelli un'improbabile cravatta fiorata, avevano inondato la cappella con fumi di incenso e strazianti litanie che per diverse ore avevano continuato a ronzarmi in testa e che ancora oggi mi sollecitano nei melanconici istanti che inevitabilmente seguono i ricordi. I funerali, quelli veri e propri, erano stati fissati per la domenica alle ore 14, a 3 giorni. Dal decesso. E sì, Dumitru aveva salutato questo mondo intorno alla mezzanotte del giovedì. Aveva svegliato Gena perché gli mancava l'aria. Lei si era allarmata, voleva chiamare i vicini per chiedere aiuto, ma Dumitru l'aveva fermata. Le aveva detto di stare calma, tanto cosa volevi che accadesse? Stava solo per morire. Sì, proprio così. Le aveva chiesto il cuscino sul quale aveva fatto riprodurre la foto di sua figlia nel giorno del suo matrimonio e che teneva sul letto. E così, con una mano ad accarezzare il viso del suo angelo, così chiamava la sua bambina, e l'altra tra le mani della moglie, comodamente seduto sul divano del piccolo appartamento al 10° piano di un infinito e anonimo palazzo di Bucarest, se n'era andato. Dal 10° piano avrà forse pensato non sarebbe poi stato un lungo viaggio, non occorreva neppure prendere l'ascensore. Dumitru aveva gestito per anni in società con Valentina un'agenzia di pompe funebri. La morte, come dire, la incontrava quotidianamente. Nessuna paura. Il giorno del funerale, la domenica, mentre si aspettava il pope, io me ne stavo appoggiato al cancello del cimitero, grattandomi la barba incolta. I parenti non possono radersi prima dell'esequie. E provavo ad immaginare quale bislacca cravatta avrebbe scelto il sagrestano per quel giorno. Non rimasi né deluso né sorpreso. Non mi sorprese neppure il cappello bianco a falde larghe e fiocco nero, da sotto il quale Valentina brigava e vigilava perché tutto filasse alla perfezione. La piccola cappella pullulava di gente viva e ben 2 morti. Quella mattina infatti avevano portato un altro defunto che avevano compostamente sistemato in un angolo. Nessuno tranne me sembrava stupirsene. Davanti all'entrata del cimitero invece stazionava un piccolo gruppetto di disperati che ben rappresentava la fase intermedia tra la vita e la morte. Sembrava gente del posto. Sì, vivevano nel Camposanto. guadagnandosi cibo ed alcol, riassettando sciattamente ma quotidianamente quel posto. Su un tavolo poggiato alla parete destra della cappella rispetto all'altare, attendevano di essere benedette, distribuite e appunto consumate, le pietanze preparate il giorno prima da Gena. Tra esse si pavoneggiava la coliva, il dolce dei morti fatto con il grano. Il funerale si era trascinato in un lento replay del rito della confessione celebrato il giorno prima con il prete e il sacrestano, intenti ad incensare e litaniare all'ossessione. Prima che la bara venisse chiusa, però, Gena e Micaela, la figlia, ad un cenno del Pope, avevano preso il vassoio sul quale era adagiata la coliva e, tenendolo ciascuna con entrambe le mani e per le opposte estremità, una di fronte all'altra, avevano iniziato a dondolarlo su Dumitru. Ciascuno dei presenti meccanicamente si era aggrappato con una mano a quello che gli stava accanto per formare un'unica catena chiusa dalle due donne che reggevano il dolce. E ognuno sembrava contribuire, tristemente, dondolandosi, a un doloroso dondolio. Con mio suocero avevo un ottimo rapporto, anche se all'inizio lui non parlava per nulla l'italiano e io inizialmente assai poco il rumeno, insomma ci intendevamo a meraviglia. Io sono andato quasi una volta all'anno, sempre anche due volte, loro sono venuti due o tre volte qui, insomma so che gli piacevo molto e altrettanto posso dire io di lui. Quattro energumeni, tre uomini ed una donna, professionalmente insensibili, circondati da teneri abbracci e lacrime, avevano chiuso la bara e, trasportatala alla tomba, avevano provveduto a murarla. E mentre una parente si aggirava tra i presenti a offrire pezzi di coliva, alla quale non era consentito opporre un rifiuto, il prete, con aria seccata, aspettava che si asciugassero le lacrime della figlia e che questa venisse a pagarlo. Nessuno sembrava stupirsene, neppure io. E così, io, che fino a pochi anni prima della Romania non conoscevo che Agi, Comaneci e Ceausescu, ero lì, perso tra le lacrime e i teneri abbracci, a sussurrare con una voce rumena «Papà» a Dumitru. Dumitru che per tutti era mitica ed io solo chiamavo, chiamo e continuerò a chiamare Dumitru. Perché io ho sposato sua figlia e quella notte di un giovedì di agosto c'ero anch'io, sul cuscino che ha raccolto la sua ultima carezza alla vita. E mi piace immaginare che sempre quella notte, negli occhi tristi di Gena, Dumitru, con il suo sguardo sempre colmo di sorrisi, accanto al suo angelo, abbia visto anche me. Non è da solo nella foto che ci ha mandato Rocco, con la sua bellissima moglie e la sua altrettanto bellissima figlia, non che lui non lo sia, però diciamo spiccano un po' di più la moglie e la figlia, sono in chiesa, sono elegantissimi e se non mi sbaglio è il momento del battesimo. Pronto Rocco? Sì, eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Come stai? Bene, grazie. È tua figlia, scusami, è tua figlia, lo immagino nella foto, sì, ma è il battesimo, sì, giusto? È il battesimo, ho voluto mandare, come dire, un momento felice proprio in contrapposizione a un momento triste che avevo raccontato nella storia. Guarda, devo dire Rocco che effettivamente è la primissima, credo, storia tutta ambientata ad un funerale, però c'è comunque una forma di leggerezza che mi è piaciuta moltissimo, nel senso che al di là delle usanze che sono diverse dalle nostre, evidentemente, da come ce le racconti tu, il modo in cui tu racconti di tua suocero è molto piacevole, molto gradevole, e anche e soprattutto il modo in cui lui ha accettato quel momento lì, no? Chi è che te l'ha raccontato? Te l'ha raccontato la moglie? Io devo aver sbagliato tutti gli accenti e i nomi. Gena si chiama la tua suocera? È Mitica, non Mitica. Perfetto, perché Mitica è, mitica, mitica è un po' tipo una squadra di calcio. Mitica! Mitica! Lui è l'altro tifosissimo della Dinamo. Ah beh, certo, certo. E scusa, invece Gena è giusto, Gena. Gena è giusto. Gena. E scusami, invece ho perso un po' chi era Valentina in tutta questa... Valentina era la socia di la socia... mio suocero, avevano insieme un'agenzia di pompe funebri. Ok, ti dicevo, chi è che ti ha raccontato il momento della fine? Gena, immagino, perché c'era lei. Sì, dopo ho raccontato e quindi io ho voluto in qualche modo, la storia l'ho scritta poco dopo, come dire... Quindi quando era? 5 anni fa? Era il 2009, giusto? Era il 2009, sì, l'anno dopo il matrimonio. E da quanti anni la frequenti la Romania? Io ho conosciuto mia moglie nel 2004 qui in Italia e nel 2005 è stato il primo anno e poi sono fatto un viaggio lì a Bucarest. E vi siete conosciuti in che modo? Ci siamo conosciuti qua in Italia, lei lavorava come infermiera a Monte Rosso al Mare, sì, dove io andavo per vacanze, lei lavorava in una casa, un RSA, sì, dove lavorava anche un mio amico, tra l'altro, una cosa sia. Storia, lui è un ex sacerdote e poi è ritornato ad essere sacerdote, la conosceva. No, no, aspetta un secondo, questa è una bomba. Allora, lui era un sacerdote. In quel momento era un ex sacerdote. Si è spretato, come si dice al mio paese. E fai il missionario in Perù e lavorava in questa RSA, dove lavorava anche. Ok, RSA sta per, perdonami, perché... Residenza Sanitaria Assistita. Perfetto, ok. E quindi tu conoscevi lui... Io ho visto Micaela e ho detto a Guido, devi presentarmela. Cioè, e Guido, che in quel momento era spretato, ha detto, aspetta che mi ripreto così... Per presentarmela, veramente ha organizzato tutta una cosa ingegnosa, perché mi disse, guarda, non ci pensare proprio, questa non dà confidenza a nessuno, e anche io la conosco più di tanto. Poi lui qualche mese più tardi ha organizzato con altri suoi amici un viaggio in Sicilia, mm-hmm, e tornando dalla Sicilia in macchina disse, ma perché non ci fermiamo per caso da un mio amico che è qui a Potenza, e hanno fatto un salto a casa mia. E okay, quindi lì l'ho conosciuta e lì ti ha dato un po' più di confidenza. E da lì sì, poi è passato un altro po' di tempo. Insomma, con i suoi tempi, direi. Ci ha messo un po', Micaela. Sì, diciamo che poi ha confessato che dal primo momento che mi aveva visto. Certo. Ma anche perché tu, martello, immagino, non hai mollato un colpo. No, invece no. No, gli hai lasciato il suo spazio. Devo dire che avevo chiesto a Guido, eravamo in estate, di presentarmela, poi è passato qualche po', insomma, non ci pensavo, devo dire la verità, e mi chiamò Guido, credo che eravamo a novembre. E passarono sua gita in Sicilia e disse, sono qui con Micaela. Poi da lì. Adesso abiti a Firenze, giusto? Adesso abito a Firenze. Cioè abitate tutti a Firenze, immagino. Sì, abitiamo tutta la famiglia. Nel frattempo mia moglie si è trasferita per lavoro qui a Firenze, io avevo trovato anch'io un'occasione qui e senti, ci siamo, come dire, per un attimo fermati. Bravo. Io vorrei continuare a girare, lei un po' meno, però vediamo. Mi dici, visto che appunto mi raccontavi che il rapporto con tuo suocero all'inizio era molto silenzioso, perché lui parlava poco italiano, quando avete cominciato a chiacchierare, o se non a chiacchierare, quantomeno a entrare in una forma di confidenza? Ma guarda, all'inizio non è che chiacchieravamo poco, nel senso ci capivamo poco, okay, nel senso che lui chiacchierava in rumeno, io in italiano, era un po' complicato, però insomma con l'intermediazione di mia moglie si riusciva in qualche modo poi a comunicare. Man mano io ho preso confidenza con la lingua e quindi a quel punto riuscivamo a parlare, però devo dire c'è stata subito affinità, gli stavo tanto simpatico. Invece scusami, tu sei un avvocato, dicevi prima. Sì, sì. E cosa fai esattamente? Ti occupi di... Sono responsabile dell'ufficio affari societari e legali di questa società, la società di trasporto pubblico qui di Firenze. Cavolo, quindi roba sporchissima. No. No. Volevo tirartelo fuori, invece no, subito. No, no, al contrario. No, insomma, cioè tu di che beghe ti occupi, scusami Rocco? Ma gli affari societari soprattutto, ah, okay, insomma, le società partecipate, poi sì, anche affari legali nel senso una parte marginale degli affari legali della società. Ma hai abbassato un po' il tono della voce mentre lo dicevi, ma io purtroppo devo salutarti. Rocco, ti ringrazio perché, come ti dicevo prima, è stata la prima storia funebre che però aveva una sua gradevolezza, e grazie ancora per avercela mandata. In bocca, grazie, al lupo per tutto, e saluta Micaela. Certamente, grazie. A presto. Ciao. Ciao Rocco, grazie. Ciao. Insomma, alla fine della storia di Rocco ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, la Romania è un posto pieno di fascino. Secondo, le usanze legate alla morte raccontano molto dei popoli che le mettono in atto. Terzo, ho capito che Dumitru doveva essere una persona molto amata. Quarto, che alle volte i luoghi comuni sui suoceri sono veri. E quinto, altre volte invece i luoghi comuni sui suoceri sono solo luoghi comuni. 349-238-6666, anche in questo lunedì dell'Immacolata, dell'Immacolata, veniva dell'Angelo. Dell'Angelo è a Pasqua. Anche questo lunedì dell'Immacolata, o come dice il mio amico Nazim Beltran, che è di origine turca, venezuelana e inglese, il giorno della Maculata. Oggi che è il giorno della Maculata, arrivano messaggi che parlano dei suoceri e dei rapporti che rompono i luoghi comuni sui suoceri. Edoardo, ad esempio, mia suocera Patrizia, che detestavo perché diceva sempre quell'altro era meglio, riferito all'ex della mia compagna, che effettivamente non è un bel modo per avere un rapporto carino col proprio genero. Ora è una specie di mamma, da quando la mia non c'è più. 349-238-6666, genero, giusto? Il genero è il... cioè la suocera è il genero, ok? No, facciamo sempre confusione tra la nuora e il cognato e il genero e quelli lì. Quanto manca? Abbiamo finito praticamente. Siamo alla Maculata, quindi abbiamo finito. Io vi auguro una buona lunedì. Scusa, mi è venuto in mente. Se ne è accorta sua moglie, se ne è accorta solo dopo 20 anni, quando lui le ha mandato un messaggio dicendo: Betty, cosa facciamo alla festa della Maculata? Saluto Nazin, saluto Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti. Grazie soprattutto a Rocco, la storia di oggi era la sua. E anche lui è un punto rosso su una mappa.